Garibaldi fu ferito di una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1862. Cade il governo Ricasoli e si forma il governo Rattazzi. Alla fine si è dimesso. Bettino Ricasoli, l'uomo che voleva a tutti i costi togliere Roma al Papa per il bene stesso del cattolicesimo, il 1 marzo 1862 ha dato le dimissioni, cedendo a un fuoco di sbarramento che negli ultimi mesi non ha conosciuto cali di intensità. Ricasoli non è caduto per i problemi di bilancio che si fanno di giorno in giorno più gravi, né per la questione meridionale o per le tensioni con l'Austria. Se n'è andato perché dopo il Papa e l'imperatore francese, anche il re e il Parlamento di Torino hanno respinto la sua impostazione della battaglia per Roma, troppo intransigente per alcuni, troppo cattolica per altri. Contro di lui aveva la sinistra e i conservatori Vittorio Emanuele II e Pio IX, Napoleone III e gli ex garibaldini, i briganti e il suo ministro La Marmora. Gli era ostile anche il presidente della Camera Urbano Rattazzi, che infatti dopo la sua caduta il 3 marzo lo ha sostituito, coronando il sogno di succedere al conte di Cavour. Ricasoli se n'è andato con dignità, persino con alterigia. Fonti non ufficiali riferiscono di suoi colloqui tempestosi con il re, di una lettera durissima al sovrano alla vigilia delle dimissioni. Vittorio Emanuele II, si sa, è favorevole ad affrontare prima la questione del Veneto e su Roma ha mille dubbi. Ricasoli invece per Roma si è mosso senza incertezze. La sua proposta di settembre a Pio IX è nota: il Papa avrebbe dovuto cedere la capitale garantito nel suo magistero dallo stesso Stato nazionale italiano. È nota anche la replica: il Vaticano ha rifiutato ogni dialogo. In fondo bastava leggere quanto il 18 marzo il pontefice aveva scritto nella sua allocuzione Iamdum Cernimus. La battaglia che si fa contro il pontificato romano non tende solamente a privare questa santa sede e il romano pontefice di ogni suo civile principato, ma cerca anche di indebolire e, se fosse possibile, di togliere totalmente di mezzo ogni salutare efficacia della religione cattolica e perciò anche l'opera stessa di Dio, il frutto della redenzione, e quella santissima fede che è la preziosissima eredità a noi pervenuta dall'ineffabile sacrificio consumato sul Golgota. Il nuovo governo è quanto di più lontano dall'esecutivo Ricasoli, anche se il partito resta quello cavuriano, liberale. Il leader Rattazzi è uomo di centro-sinistra, laico, anticlericale. I ministri sono prevalentemente piemontesi, lo ha voluto il re. I problemi però restano sul tappeto. Le finanze in bolletta, il sud in rivolta, l'Austria minacciosa, Garibaldi agitato, Roma agoniata, è impossibile. Tanti auguri. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.